non c'è quasi differenza fra i laburisti e, beh, i conservatori nella posizione, cioè sono talmente simili per cui Luigi, che non si vive l'atmosfera di permanente guerra civile, che è un po' quella, insomma, del rapporto tra opposizione e maggioranza, qualunque siano gli scambi dei due termini di colore politico, in Italia, dove noi viviamo nella guerra civile permanente, una guerra per banda, un'espressione tribale, roba da premoderna, ecco, perché noi associamo a quello l'idea del bipolarismo maggioritario. Invece in Gran Bretagna c'è questa bellissima idea di questa sala verde, no? Con i seggi seduti uno di fronte all'altro, senza che nulla li separi, in cui ci si alza e il capo dell'opposizione e invece il portavoce del governo o il primo ministro spesso parlano durissimamente, rivolgendosi con delle battute ironiche e taglienti a 2 centimetri dalla faccia degli avversari, che ridono, fanno al massimo in Parlamento, non come succede da noi in televisione, in cui magari ci si insulta, si mandano a farsi fottere i giornalisti, come oramai è diventata prassi nella comunicazione politica italiana. Noi siamo un paese tribale. Ecco, questo è il punto, secondo me, rispetto alla grandezza dei paesi che hanno secoli di democrazia rappresentativa, anche perché hanno tagliato la testa ai re molto prima di noi, tanto per essere chiari.